Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Sono giorni caldi su vari fronti del mondo dell'autotrasporto, dal fermo proclamato da Unatras per sollecitare il governo a rispettare gli accordi e quindi dare il via agli interventi di sostegno al settore previsti dalla legge di stabilità, alla definizione delle modalità di erogazione degli incentivi a favore dell'intermodalità mare bonus e ferro bonus, fino al Brennero, dove da domani l'Austria schiererà altri 80 poliziotti per dare il via a controlli più accurati. Almeno questo è l'ennesimo annuncio da parte di Vienna, una decisione che riaccende le preoccupazioni da parte degli operatori della logistica e non solo. Da settimane sottolineiamo quali sarebbero le conseguenze di un rallentamento del flusso delle merci. Si tratterebbe di danni pesantissimi per l'intera economia nazionale, che un nuovo studio presentato nei giorni scorsi da Confcommercio ha quantificato e dettagliato. In questa puntata di Hashtag Autotrasporti ci occupiamo di tutto questo e quindi partiamo con la proclamazione del fermo da parte di Unatras, l'Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto, alla quale fanno capo varie sigle. Perché questa iniziativa? Lo abbiamo chiesto al presidente Amedeo Genedani, che è anche il presidente di Confartigianato Trasporti. È inaccettabile questo comportamento del governo nei confronti della categoria dell'autotrasporto. Dall'accordo di novembre alla legge di stabilità ad oggi non abbiamo recuperato niente di quello che c'era stato promesso, ma abbiamo fatto solo dei sacrifici. Tutto quello che era stato concordato nell'accordo del 5 di novembre, riportato nella legge di stabilità, quindi uscito tutto quello che era l'accordo, ma mancano tutti i decreti attuativi, sia dal punto di vista delle spese non documentate, sia dal punto di vista degli investimenti, della riduzione del costo del lavoro e soprattutto anche i soldi per la riduzione, diciamo, per il rinnovo del parco veicolare dei veicoli che la gente è obbligata a comprare. Questi veicoli nuovi Euro 6, visto che non recepiscono più le accise sugli Euro 1 e Euro 2, quindi il governo oggi da un lato si riempie la tasca sinistra di accise che non paga più sugli Euro 1 e sugli Euro 2 e la tasca destra se la riempie con l'IVA che noi siamo obbligati a comprare i veicoli senza aiuti come era stato promesso. Ma quali saranno le modalità del fermo? Semplicemente le modalità attuative sono demandate alle singole organizzazioni, che al loro interno dovranno avere l'ok della base associativa per procedere poi alla comunicazione dell'autority del garante, molto semplicemente, e fissare il giorno in cui ci sarà questo fermo. Nel frattempo dal Ministero dei Trasporti è giunta la convocazione dei rappresentanti delle associazioni e l'incontro con il capo di gabinetto Mauro Bonaretti è fissato per lunedì prossimo. Dall'esito di questo vertice, con ogni probabilità, dipenderà l'avvio o la sospensione delle iniziative di protesta. Tra i provvedimenti inseriti nella legge di stabilità a favore del mondo dell'autotrasporto e in questo senso anche dell'intermodalità figurano gli incentivi mare bonus e ferro bonus. Proprio in questi giorni il presidente di RAM, Rete Autostrade Mediterranee, Antonio Cancian, sarà a Bruxelles, dove incontrerà i vertici della Direzione Generale della Concorrenza, l'organismo comunitario che sta vagliando appunto la questione. Si tratta di codificare la natura dei provvedimenti e quindi le modalità di erogazione degli interventi di sostegno. Si tratta di quasi 200 milioni di euro in 3 anni. Su mare bonus e ferro bonus e più in generale sullo sviluppo delle autostrade del mare e dell'intermodalità, al Ministero dei Trasporti abbiamo intervistato il presidente di RAM, Antonio Cancian. Si parla da decenni di autostrade del mare con risultati, diciamo così, un po' altalenanti. Forse questa è la volta buona? Credo di sì. Il ministro è molto, molto diretto in questa cura dell'acqua, in questo sistema mare. Nel nome dell'intermodalità. Ci sono 3 termini che io uso spesso. Uno è il collegamento, quindi interconnettività tra l'asse e il nodo. Uno è lavorare nel nodo, nell'intermodalità, quindi rendere il nodo intermodale. E un altro termine che si aggiunge, sempre aggiungendo un'altra I, è l'integrazione. L'integrazione di che cosa? L'integrazione delle possibilità economico-finanziarie per realizzare i progetti e presentare progetti integrati. Perché non può essere più un progetto relativo al trasporto, ma deve essere il trasporto, l'energia, la telecomunicazione, devono essere messi insieme per avere un progetto integrato. Fare sistema, in sostanza. Il sistema mare, il sistema della progettazione, il sistema del finanziamento, il sistema della fare in modo che questa connessione ci sia, perché sennò i nostri assi europei non contano assolutamente nulla, sono invasioni di campo. Apre il Gottardo, è stato inaugurato il raddoppio di Suez, ci sono delle sfide importanti tipo Internet delle cose, c'è questo grande lavoro importante che dalla Cina via terra, via ferro, arriva diciamo dall'Asia. Mare bonus e ferro bonus, incentivi previsti dalla legge di stabilità, dovremmo esserci anche sotto questo profilo? Ho preso un appuntamento col commissario europeo perché si possa completare l'iter, si possa arrivare alla fine dell'iter, affinché non venga preso in considerazione come aiuto di Stato come è stato fatto nel passato, ma ci dia l'ok, ci dia l'autorizzazione per poter procedere. Quindi noi pensiamo che entro giugno questo possa essere sia per il mare bonus che per il ferro bonus e poterla subito dopo applicarla, perché i soldi ci sono, perché il ministro anche qua ha avuto diciamo la forza e il coraggio di mettere a disposizione 200 milioni nei 3 anni e questi sono veramente un fatto importante. Le modalità di erogazione? Modalità di erogazione sono previste in un regolamento che abbiamo presentato all'Unione Europea, la quale lo sta vagliando. Vengono dati, per quanto riguarda il mare bonus, vengono dati agli armatori, i quali hanno l'obbligo di rimetterli diciamo per il 70% agli utilizzatori, quindi agli autotrasportatori, e per l'altro 30% per contribuire all'infrastrutturazione. Per quanto riguarda invece il ferro bonus, riguarda lo stesso sistema di combinazione che è stato fatto anche nel passato con le ferrovie, quindi credo che la storia si possa chiudere. Aggiungo una cosa, che noi abbiamo già presentato un progetto CEF, della Connecting Euro Facility, per far sì che questa agevolazione diventi un sistema europeo, non più solo italiano nel Mediterraneo. E veniamo al Brennero, dove ormai da mesi si susseguono gli annunci da parte di Vienna sull'intenzione di ripristinare i controlli al valico. È ormai diventata una partita a scacchi con l'Italia e l'Europa, giocata sul filo della pressione psicologica e politica. Proprio ieri in Austria si è svolto il ballottaggio delle presidenziali, come avete sentito nel corso di Effetto Giorno. L'ultima mossa dovrebbe prendere forma domani, quando 80 agenti della polizia austriaca affiancheranno i colleghi già in servizio al Brennero. Ha fatto sapere di essere stata costretta a rinforzare le pattuglie dopo che negli ultimi giorni si è registrato un aumento di migranti che passano il confine, dati però subito smentiti dal nostro Ministero dell'Interno. Vedremo se e come verranno svolti i controlli e quindi se andranno a rallentare il flusso delle persone e delle merci, al di là della costruzione della barriera presentata alla fine di aprile dalla polizia austriaca e i cui lavori al momento sono sospesi. Le conseguenze della chiusura del valico sulla logistica e sull'economia del paese sono state focalizzate da un nuovo studio di Confcommercio. Massimo De Donato ha intervistato Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto. I danni di un'ora di ritardo nei traffici della gestione logistica significano 170 milioni di euro per l'autotrasporto e 203 milioni di euro per il sistema produttivo, per un'ora di ritardo, il che vuol dire 370 milioni di euro. Ecco, Uggè, ma il rischio è solo questo, economico, o c'è un rischio politico serio? Il rischio è che l'Italia venga bypassata, non solo via mare come già avviene oggi, le merci che entrano nel Mediterraneo vanno a sdoganare nei porti del nord Europa, 900.000 container con merce destinata all'Italia vengono sdoganati nei porti del nord Europa e già questo produce un danno di mancate entrate pari a 4 miliardi. Se noi introduciamo l'incertezza della funzione logistica, rendiamo conveniente il tutto strada attraverso il corridoio balcanico, che già è 1.000 chilometri in meno come lunghezza, e quindi si rende conveniente bypassare l'Italia anche via terra. E quindi l'Italia che passerebbe da piattaforma logistica europea avanzata nel Mediterraneo a un'isola spartitraffico nel Mediterraneo. Vi ricordo che Radio 24, in collaborazione con TIR, la rivista dell'Albo degli Autotrasportatori, ha lanciato su Twitter l'hashtag Brennero Merci, attraverso il quale raccogliere segnalazioni, notizie, commenti e testimonianze su quanto avviene al valico. Prima di chiudere, un paio di notizie in breve. Il Comune di Milano ha stanziato poco meno di 1 milione di euro per incentivare gli autotrasportatori ad installare filtri antiparticolato. possono usufruire del contributo i proprietari di veicoli delle categorie N1, N2 ed N3 alimentati a gasolio e appartenenti alle classi da Euro 0 a Euro 4. L'incentivo è riservato alle imprese che hanno sede legale o operativa in Lombardia. I termini e le modalità per la presentazione delle domande saranno resi noti a breve. Infine, un flash dalla Francia. Le organizzazioni degli autotrasportatori, in prima linea contro la nuova legge sul lavoro, hanno temporaneamente rimosso i blocchi che la scorsa settimana avevano provocato la paralisi su vari nodi logistici del paese, a partire dal porto di Le Havre. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.